Torna piccola me, mai più ti lascerò. Non voglio ancora far soffrire di più il tuo piccolo cuore. Torna piccola me, sincero è questo cuore, che vuol ricominciare la vita con te per la gioia d'amar. Quest'incanto tu mi potrai donar e l'anima mia vuole solo te. Ma di languor non vuol morire, vorrà quel dolce tuo sì. Torna piccola me, mai più ti lascerò. Non voglio ancora far soffrire di più il tuo piccolo cuore. Torna con me, non ti negar, tutto di te ricordo ancor. Solo così rinascerà l'amor. Torna piccola me, mai più ti lascerò. Torna piccola me, mai più ti lascerò. Non voglio ancora far soffrire di più il tuo piccolo cuore. Torna con me, non ti negar, tutto di te ricordo ancor. Solo così rinascerà l'amor. Torna piccola me, mai più ti lascerò.